in questa notte quieta io penso a te. I miei ricordi mi assalgono e sento te dentro la mia anima, sorpreso sorrido un po'. Discorsi, solo adesso capisco un po'. In questa notte buia sorrido un po'. Il tempo ne è passato, sì, ma il cuore non dimentica e sorride come noi. Raccontarci l'anima e vibrazioni volano, e quelle sensazioni dentro me, intenti a raccontarci le anime grandi come fuori. La luna si riflette sulle case, l'aria fresca viene su e bevo un buon caffè, ma continuo a pensare a te. Bella la notte con te, seduti a raccontarci l'anima e le vibrazioni volano, e quelle sensazioni dentro me, intenti a raccontarci le anime grandi come. Raccontarci le anime grandi come.